avanti. Ciao Roberto, buonasera. E beh, Zafra, cosa stai combinando? Ero in radio tutta la sera, ho voluto un pochettino giocare e niente, sto giocando su giù, a destra, a sinistra, ma non qua, non queste bande. Ah, non 10 metri, non eri 27 palle in altre bande, dai. Sì. Stavo ascoltando una broadcasting che mi ha occupato un bel po' di tempo perché non capivo dove diavolo trasmetteva. E quindi, perché c'aveva molta riconoscenza, poi mi sono accorto che da si chiama, per Stati Uniti, da una di quelle stazioni di Pretty o comunque, non proprio Pretty, dai, figure che fanno soldi. Religiose. Diciamo così, dai. Perché c'è un trasmettitore da 100 kW, cioè o meglio, ne avrà tanti trasmettitori, perché all'inizio trasmetteva della musica che era anche abbastanza carina. Poi è iniziato questo a parlare, non ho più capito. Quindi ero curioso di sapere le potenze che usava, cioè dei trasmettitori da 100 kW. Ma dove questo? Su che banda? Ma questo era in 21,5 spiccioli. 15 metri, dai. E c'è un broadcasting in quella frequenza lì? Sì, caspita. Sono un po' dappertutto. Quelle ci sono. Gli unici che ne hanno una sola, da 120 kW, siamo noi. Un attimo. Che lo sai, in onde corte. 120 kW da coso lì, adesso non mi ricordo il nome della zona, quasi direi uno, tutte le altre ne hanno segate proprio nel senso quello della parola, lo segato. E aspetta, forse c'è Claudio, allora ti Claudio. Sì, c'è anche Gianfranco. Ascolta, sto provando il più 3 che gli ho fatto le connessioni dirette, lo senti più quel rumore? Non parlare, prova. No, il rumore non lo sento. Il rumore di alternata li sentivi? La modulazione com'è, buona? È pure troppo forte. E vabbè, quando lo vedo, l'importante è non avere quel rumore che c'era sotto, capito? Perché era l'adattatore e faceva così. Ok, dai, ci sentiamo dopo se ci siete. Avanti Gianfra, ciao, buonasera a tutti. Ciao Claudio, buonasera. Regalato un po' perché si sente tutto sottofondo, però l'aria è buona, però quando parli solo tu. Era un bel ribombato, se ti volevo uccidere sottofondo, era troppo alta, troppo amplificata. E cos'è passata? E tu cosa hai combinato? Combinato che ho fatto danno, cazzo, per la fretta di mettermi a toccare e fare. Solo ho cambiato, per la parabola di quella piccola, ho cambiato il pistone, l'attuatore. E stavo impostando i limiti, cazzo, sono andato oltre i limiti, ho piegato il supporto. Adesso devo smontarne il coso, speriamo non mi tocchi di allineare niente, perché non ne ho proprio voglia. Lo stavi dicendo, Gianfra? Io poco fa, non mi avevo ascoltato allora, no, stavo dicendo che era troppo forte la radio, si sentivano molto i sottofondi, la gente a parlare rimbombante, dai. Vabbè, l'ho passato di uno, dai, è un cane più 3, purtroppo non è che ci posso fare molte regolazioni, così va bene, linea di massima, dai, non è la radio chiuso sempre, però gli ho messo un cane più 3B. Ma sei molto distante dal microfono qua? Sono distanza MC60, 20 cm, 30, 25. Sembra che ci sia una stanza vuota, la sento, la voce è chiara, però la sento tipo una stanza vuota, molto rimbombante, dai. Beh, non è piena la stanza, non è che ci siano tante cose, sono le radio, altre cose, ma insomma, non è che... Vabbè, l'importante è mi sentite, la modulazione sia buona, dai, chiara, poi... Se è rimbombante ci prendiamo il rimbombante, ok? Sì, dai, abbassa un po' il volume già va bene, dai, vai Gianfra. Sì, è più o meno il difetto di tutti quei microfoni, che anche quando lo mette natalino, no, lo stesso sente più la radio con la voce. Tendono ad amplificare troppo i sottofondi perché non c'hanno la riduzione di rumore, come potremmo dirne. Il problema è tutto lì. comunque va bene, Claudio, quando non c'è nessuno va bene, anche se ripeto rimboccia questo effetto come diceva Roberto. L'ho passata ancora di un'attacca. Allora facciamo così, mettiamo, ecco qua, leggermente così, va meglio? Sì, ha migliorato. Confermo, adesso va bene. Ok, va bene, era troppo alto, ma mi sono accorto che era 3, l'ho messo a 1. Va bene, no, l'importante no, perché l'altro giorno stavo provando con Roberto, con l'adattatore, c'era un rumore di sottofondo, praticamente un zio, adesso l'ho eliminato, lo stavo provando. Va bene, divertitela, buon questo, ciao ciao. Ciao, vai a tagliare l'erba, così. Ciao, ciao. Non tagliare niente, già rasato, la mai erba non ce n'è più, già faccio il prato inglese, quindi lo taglio una volta alla settimana, niente di che. No, no, no, sono tranquillissimo perché stavo facendo altre cose, ma ero qua in stanza, quindi mi stavo facendo questo microfono piano piano, perché non è che ci vedo molto, ho copiato le connessioni dall'MBP5 che aveva fatto Fabrizio, l'ho fatto uguale, diciamola. Ok, va bene, ci sentiamo. Beh, statemi bene, alle prossime, ciao ciao. Io, ciao qua. Ciao Claudio, a dopo. Niente, poi stavo guardando dalla radio la seconda guerra mondiale che hanno ripulito e continuano a funzionare, capisco, cose fatte in un certo modo, hanno superato il quarantennio anche. Io invece non so se l'ha detto a te, vabbè, forse l'ho parlato solo con Claudio, ho recuperato un radiogoniometro navale della Simrad che costava all'epoca una barca di soldi degli anni prima, poco prima del GPS, del posizionatore satellitare, e c'era tre bande di onda, cioè 100, da 190 a 420, da 550 a 1600 e da 1600 a 4500, non so, spesso che lo sai, non c'è niente da te, il funzionamento adesso mi devono dare l'antenna e un convertitore in modo da utilizzarlo anche su altre bande, in modo quando dobbiamo rilevare qualcosa ci divertiamo. Sì, sicuramente lo usavano per il LORAN, giusto? Li usavano quando non c'era riferimento nelle navi oceaniche, quando allora non c'era il plotter eccetera eccetera, il GPS, si sintonizzavano su una stazione a terra, anche a migliaia di chilometri, c'è un indicatore di livello, imposti la frequenza, per dire, devi andare Miami, un esempio qualsiasi, c'è nell'oceano, io imposto la frequenza, giro l'antenna e mi dà la rotta in quella direzione dove c'è il massimo segnale, e vado, seguo quella rotta lì, tipo il radiofaro che usano negli aerei, più o meno il principio è uguale. E bellino, è tutto digitale, c'ha una bussola circolare, diciamo, tipo bussola di nave, quelle circolari col nord, ci sono dei led che girano intorno e ti dà la posizione, tu lo orienti verso la posizione dove andare, e poi c'è una scala a led, uno smitter a led da 0 a 10 e ti dà il segnale intensità di 6, ma è molto sensibile, puoi usare sia come ricevitore oppure per sintonizzarti su queste frequenze qua. Sì, beh, se mi dici che digitale non è così vecchia, no, è una cosa vecchia, all'epoca dell'Oran che erano dei radiofari, perché cos'è dei radiofari, che ce n'è ancora comunque, ce n'è uno per dire, non so se non hai visto, alle Bombarde, dove c'è la spiaggia, devi andare, posso girare per la spiaggia, devi andare dritto, c'è una casupola con un'antenna, con una specie di traliccio non molto lungo. Adesso la frequenza su cui trasmette non me lo ricordo, però una delle frequenze che hanno lì in aeroporto una è 113 875, se non ricordo male, che è VHF aeronautico. L'altra è invece in onda lunga, che è a 340 kHz, che dà il segnale in CV, con la scritta ALG. Ma questo ha preso un po' di rapporto, molto appassionato, adesso mi dovrebbe portare, ne ha due di quelli per ricevere satellite in Massat che ti danno le previsioni meteo, ma fa trovare un'antenna, se ti metti a vedere, ridico, io pensavo fosse un'antenna bella grossa, ne ha due, di queste due, uno efficiente, mi ha mandato il video, e l'altro deve recuperare l'antenna. Se mi fa un prezzo ragionevole, penso di sì, me lo prendo, perché vedi, no, perché poi l'interfaccia al computer ti puoi dare, poi solo, vabbè, puoi avere la vediata oppure stampartelo con una stampante dedicata, c'è una stampante ad aghi, però si può adattare anche una qualunque stampante e ti dà tutte le informazioni. È interessante, dai, sono cose carine, magari adesso sono superate perché ti colleghi a internet e ce l'hai in diretta, però riceverlo tu in diretta da satellite è più piacevole. Mi sembra anche tu c'hai qualcosa, sbaglio? No, ma guarda, c'ho un'antenna esattamente a 2 metri di distanza, perché sulla finestra, proprio per l'Imassat, che fa comunicazioni prevalentemente navali. Il problema è che non ho avuto tempo di posizionarla. C'ho anche l'amplificatore a basso, diciamo, a bassissimo rumore. E niente, non c'è tempo, guarda, è una cosa micidiale, no? C'ho già roba di l'amplificatore, l'avrò preso un anno fa, ma non c'è tempo, ogni tanto ce n'è una, è una cosa che non si crede, no? C'è giusto il tempo di respirare, oramai basta, e a volte ti manca anche quello. E niente, poi sì, quei radiogoniometri li conosco, ma se tu guardi, se ti prendi la curiosità di guardare, io anche ieri mattina ero lì, sui rimorchiatori, anche soprattutto sulle motovedette, la guardia costiera, c'hanno con l'antenna circolare a croce, e quello lì è il radiogoniometro, che attualmente sono molto automatizzati, capito? Lo giri e sulle spleti e certo che ti escono le coordinate di segnale, però costano sproposito. Guarda, questo che ho io, solo c'è, che si chiama Simrad Taio, è specializzato in questi apparecchi qua, pochi, non sono molti, vado in Giappone, all'epoca costava 7.900.000 lire, l'antenna costava quasi 4 milioni, ed è un'antenna circolare, sono due antenne circolari, una incrociata con l'altra, mentre quella per le VHF, perché lui c'ha quella per le VHF pure, quella lì che mi deve mandare, quella lì sono tanti dipoli messi a circonferenza, mi sembra sono 5 o 6 di pure, adesso non mi ricordo quanti sono, e c'è un sistema elettronico che legge il segnale a direzione, non sono in movimento, queste sono fisse le antenne, e c'è un sistema elettronico che tipo un radar, che sta sempre girando questo amplificatore, amplifica in modo circolare, vedi, prima un dipolo poi l'altro, e cerca il segnale nella direzione più forte, e vuole interfacciare attorno all'apparecchio, e questa antenna me la deve spedire, questo qua sta per spedire, nel senso di Cagliari, però c'è un amico suo che sale qua di Porto Torre, e te la faccio portare da lui, così non facciamo neanche la spedizione, se no mi tocca scenderci a Cagliari a prendere, no, non ti preoccupare, te la faccio, perché è anche grande, è 96 cm l'antenna di altezza, c'è tutto un sistema di monitoraggio, tutto un sistema allucinante, infatti non mi immaginavo fosse così complicato, ed è proprio diretta ad attaccare a questa roba qua. Sì, prima erano discretamente complicati, anche perché spesso quel tipo d'antenna sono navi vecchie, ovviamente, quando ancora non c'erano i sistemi automatici, c'era il manopolone sotto, no? E tu andavi e dovevi girare la manopola in modo che l'antenna fuori ruotasse e quindi ti desse la posizione del segnale. Infatti stasera stavo anche leggendo proprio a Tel Aviv, proprio per questo, i sistemi che utilizzavano, no, i tedeschi per intercettare le radio spie, diciamo così, avevano, non so se le hai mai conosciute, quelle che mettevano in CV, le mettevano dentro una valigia, sono viste in tanti film, spendevano un dipolino e in CV trasmettevano in Inghilterra per i servizi segreti, e loro, siccome sapevano benissimo che queste radio, bene o male, il problema di queste radio, per quanto consumassero poco, era l'alimentazione, stasera da facevano, a parte il classico radiogoniometro sulla vettura o sull'autocarro eccetera, utilizzavano la tattica di togliere la corrente nei vari quartieri se si trattava di città, e quando vedevano che il segnale scompariva allora sapevano già in che quartiere era. Dovremmo fare così anche noi col portatile. Non lo so, sarebbe una bella, intervieni qua con qualche amico nell'Enelita, luna e sole, cappuccini, Monte Rosello, vai veloce, quando qualcuno mette la portante, però ti rappresenta questo tipo che dico io, questo non è adicoso di corrente elettrica, lui non utilizza la corrente elettrica a casa sua, cioè i pannelli solari con gli accumulatori, con le batterie, io corrente per trasmettere, per ricevere non ne utilizzo, ho questi sistemi qua a batteria, non ne ho mai usato io nella mia stazione di corrente 220, cioè, nel senso con la luce, però tutte le apparecchiature sono collegate a pannelli solari con l'inverter e le batterie, cioè, dicevo, non ho mai utilizzato corrente, anche cioè, senza alimentazione, se manca la corrente elettrica io ce l'ho sempre attiva. Sì, ma queste sono cose moderne, ma un altro sistema, siccome ovviamente la controparte sa sempre quello che fa il nemico, no, e viceversa, quindi è saputa una cosa del genere per non essere intercettati per nome in questo modo, che era abbastanza preciso, anche perché le radio poi da trasportare erano particolarmente pesanti, e comunque anche se si trovavano con una batteria in tasca, cioè in tasca, oddio, che trasportavi comunque una batteria, era molto probabile che ti fucilassero sul posto, ecco, come spia. E quindi cosa facevano questi? Sicuramente avevano le batterie al piombo, no? Utilizzavano le dinamo della bicicletta e correvano roba di 4 ore per ricaricarla. Quindi tu figurati che sacrificio che era ricaricare queste batterie con la dinamo collegata a una bicicletta, anche perché non potevi utilizzare quelle biciclette che si vedono, no, sulle radio vecchie, che erano abbastanza grandi, ma utilizzavano proprio biciclette per le proprie. Sì, ho visto qualche film quando c'erano da campo, quando non c'era energia elettrica, c'erano i trasmettitori, c'erano i tipi, gli operatori, c'erano una manovella, giravano, anche tipo quando facevano la sirena d'allarme, la giravano a mano, l'ho visto, interessante, vabbè, prima ce l'arrangiavano, ho visto un servizio di questo qua in un campo di concentramento, questi italiani cosa avevano costruito una radio addirittura, non riuscito a fare una radio, però con le valvole, erano riusciti a fare le valvole, una valvola per trasmettere, non so, per ricevere. Quando sono arrivati gli americani, dice, sono rimasti a bocca aperta, ma utilizzando elementi di lì del campo di concentramento, per cui immaginati cosa cavolo sono riusciti a fare questi, per dire, condensatore variabile l'avevano fatto con le lamelle e con le lamette da barba, poi non so la resistenza, non so cosa avevano utilizzato, tutta roba trovata di lì, hanno fatto i condensatori, non so, che proprio a livello sperimentale sono riusciti anche a costruire una valvola, non so come abbiano fatto, perché era tutto spiegato, infatti questo ingegnere diciamo sperimentatore è riuscito a costruire una radio trasmittente utilizzando la roba del campo di concentramento, per cui non è che sei in città, vai dal fabbro, fammi quello, vai da quello, fammi là, hanno fatto tutto di lì, c'era uno specialista di ottica, non so cosa aveva costruito, l'altro aveva fatto non so che cosa, era un gruppo di amici di carcerati di lì dentro, di prigionieri, avevano costruito una radio. Quando sono arrivati gli americani, dice, cos'è questa cosa? Eppure hanno trasmesso. Sì, la storia è un po' diversa, in realtà non trasmettevano perché sarebbero stati subito intercettati sicuramente, poi con chi trasmettevi lì da un campo di concentramento, senza antenna tra l'altro, ricevevano e per la corrente avevano utilizzato una specie di diodo rubato non so dove, capito? Grazie a questo diodo messo in una configurazione particolare riuscivano a ricevere radiolonda e quindi essere sempre informati. Tu figurati che hanno costruito anche le batterie, perché a una certa ora, lo sai, in quei campi staccavano la corrente, l'unica corrente che c'era era quella nei reticolati, altissimo voltaggio, e utilizzava anche l'urina in modo da fare l'elettrolita, diciamo, per le batterie, quindi una cosa di un'ingegnosità veramente pazzesca, ecco. Sì, più o meno così la storia. Ma c'era l'inventiva di questo qua, ingegnere italiano, che proprio diceva una cosa allucinante, cosa non erano riusciti da niente, perché in quel film tu ricordi tu La Grande Fuga, forse ci avevano fatto una cosa del genere, però questa era ancora più complicata, perché avevano fatto, era variabile, nel senso non era fissa, non era la classica radio a galena che ti metti le spille, le bobine, questo proprio riuscivano a sintonizzare, però per io mi ricordo che trasmettevano, non mi ricordo cosa utilizzavano, se si erano attaccati alle antenne stesse loro o qualcosa del genere, come furbizia avevano utilizzato forse l'antenna che avevano di lì, perché questo era un po' più diverso, un po' diverso da quell'altro solito del ricevitore. Questi erano riusciti, parliamo di fine guerra mondiale, proprio nel 45, quando c'erano già gli alleati, erano riusciti loro a fare qualche indicazione. Sì, utilizzavano dal campo elettrico che avevano rubato lì da qualche magazzino, no? E quindi utilizzavano quei cavi lì. Guarda, gli italiani sono, cioè sono gli italiani che sottovalutano gli italiani, purtroppo. Dalle altre parti non sono molto d'accordo sul nostro pessimismo, sulla nostra denigrazione di noi stessi. Stavo leggendo poco fa che tu pensa che c'è una ditta italiana che è di lì, dalle parti dell'Emilia Romagna, quelle zone lì, che praticamente è diventata leader nella costruzione di lineari, amplificatori lineari per stazioni broadcasting, ed è l'unica al mondo a riuscire a fare praticamente lineari per tutte le frequenze di dimensioni ultra piccole e ultra leggere rispetto alle case note tipo Rota Schwarz e quelle americane, tanto più che per aumentare la produzione ha dovuto acquisire, anzi per poter operare negli Stati Uniti, che lì sono molto chiusi, no, in queste cose, ha dovuto assorbire una fabbrica americana in modo da poter usufruire di tutte le licenze necessarie in quel paese per poter produrre questi aggeggi. Ed è diventata praticamente la terza a livello mondiale. Tu figurati che questa ditta fornisce gli amplificatori, i modulatori, eccetera, a Radio Maria, che è praticamente in tutto il mondo. Quindi guarda che prestigio che ha acquisito in pochi anni. Sicuramente ti stai riferendo alla Elenos, che è una ditta italiana, costruisce da tantissimi anni, esporta in tutto il mondo, ha vinto anche l'appalto quando le stazioni broadcasting americane, ha superato addirittura le grandi industrie americane, ha fatto anche uno stabilimento, di piccolo stabilimento di Lionetta, probabilmente è quella che ti dici, la Elenos. Sì, la Elenos, esatto, non mi ricordavo il nome. Ed è piccola, non è come la Rode Swartz, stabilimenti, eccetera, eccetera. È un'industria, cioè hanno un fatturato di tutto rispetto, al punto di potersi assorbire l'equivalente americano, però insomma i prodotti sono unici, sono una cosa che lascia la bocca aperta anche le grandi, tipo Rode Swartz, le altre ditte che sono specializzate in quelle cose, fanno degli amplificatori per HF, insomma, non so se li hai visti quanto sono grandi quelli che utilizzano le broadcasting, quelli lì invece sono di dimensioni ridotte e hanno delle prestazioni superiori. Certo, stanno utilizzando la classe D, questa sono molto compatti, come quando dire negli amplificatori uso domestico usano i MOSFET, per dire adesso tirano fuori amplificatori da 1000 watt, tipo il confronto con gli switching rispetto agli amplificatori, come si chiama, l'alimentatore al trasformatore, pesano un decimo e hanno prestazioni esorbitanti, così il salto grande l'hanno fatto sul broadcasting. No, la Elenos fa dei giusti, li conosco benissimo perché io sono grande appassionato e molto interessato di queste cose, tra l'altro avevo anch'io è una piccola radio privata, per cui sono abbastanza aggiornato di queste cose qua. Noi abbiamo dei marchi all'avanguardia, cioè sulle antenne, adesso mi ricordo se era la Sirio chi ha vinto l'appalto per costruire queste antenne, c'è un brevetto mondiale, sono delle antenne circolari per frequenze particolari e l'hanno fatto loro, è un brevetto internazionale e tutte le altre case al mondo devono farla uguale a quello, perché su licenza, non mi ricordo perché frequenza l'avevano fatto, tra cui anche la NASA l'ha preso, è la cosa inglese, l'ente inglese delle telecomunicazioni, non so, adesso non mi ricordo esattamente le frequenze, e ha vinto proprio la LEM, una ditta famosa di qua, italiana di antenne, poi c'è stata la IRTE a livello mondiale, è sempre stata una delle pochissime che riusciva a entrare negli Stati Uniti, in Germania, perché in Germania sono tutto rode suate, solo che costano un sacco di soldi, Star Train erano le antenne, però la IRTE ha dato filo a torcere agli americani, molto molto, perché sono antenne di robustissime, infatti tutti i punti ripetitori Rai, la maggior parte sono tutti, almeno erano tutti in coso della IRTE, non parliamo poi della Suono, che non è molto conosciuta, però a livello mondiale, se tu vai a vedere cosa costruisce, per cui visto che tu sei radioamatore sicuramente conosci la SPE, che è stata quella ditta che ha costruito quell'amplificatore da 2 kW a transistor automatico, che fa automaticamente il cambio di banda, accordatore in una frazione di secondo, fa tutto, cosa un'esorbità, però una cosa a livello mondiale è quella. Sì, vabbè, la parte radioamatoriale non è che mi attira, soprattutto degli ignari di tanto, la verità. È un discorso diverso da parte invece civile militare. Se ne vogliamo citare una che vale per 100 è Selex Leonardo, che sta lanciando nuovi apparati, la nuova linea di apparati tattici eccetera, che sono tutti in SDR con prestazioni veramente micidiali e fattori di leggerezza e di resistenza veramente notevoli, proprio a uso militare tattico e piccolissimi, quindi cioè, ne abbiamo di eccellenze, ne abbiamo. Sì, assolutamente, purtroppo ci abbiamo il vizio di denigrare tutto, guarda, io sono nel mio lavoro, per dire, le macchine, la gente si fissa, cosa, quello è il bidone, quello, tu devi prendere qua senza cognizione di causa, ma noi abbiamo dei brevetti mondiali sul campo automobilistico, ma non di adesso, di cose di 30 anni fa, le macchine, le altre macchine le hanno avute 30 anni dopo di noi, non parliamo della BS, Common Ray, macchine elettriche, noi le abbiamo fatte 30-40 anni fa, queste cose qui, che poi ce le hanno su licenza, le stanno facendo, perché la BS l'ha inventato un italiano, il Common Rail l'ha inventato la Fiat eccetera eccetera, sono tutte cose che poi sono state cedute per distribuirle e noi ci fidiamo, la macchina è nostra, sono bidoni, ma che cazzo, c'è la giuda, c'è gente che chi l'ha provata e chi l'ha sentita e sa cosa di cui stiamo parlando ne parla tantissimo, vedo dei commenti sul forum, iniziano a denigrare questa macchina, dice noi qua Audi qua, ma che cazzo di Audi, guardi quella macchina lì e cerca di mettere la confronta, ho fatto le prove dell'Alce con quella macchina lì, non so se è la prova dell'Alce per il capotamento, sino a quando la macchina tiene la strada a 75 km orari fanno una testata di colpo e tu dovrai vedere le Porsche sono macchine che fine hanno fatto, la Silvio che è un SUV, si ha cagato macchine da sportive, le ha cagate addosso, perché certe hanno capotato, molte macchine hanno capotato, non parliamo del classe A, non so se ti ricordi la classe A l'avevano, se fosse fatta la Fiat una cosa del genere non avrebbero più comprato, siccome la Mercedes se lo può permettere, hanno fatto la prova dell'Alce con i giornalisti, vedete quando hanno presentato la classe A, hanno tentato e hanno capottato e si sono anche fatti male, e da quel momento lì hanno dovuto mettere le SP per evitare il ribaltamento, e noi denigriamo la Fiat, la cosa, la Alfa Romeo, la Lancia, quando costruiva la prima macchina al mondo ha fatto la scocca portante, poi tutti quanti li hanno copiati, l'Alfa Romeo non parliamo di vetture, guai. Sì, io non mi occupo tanto di macchine, non so quello che devo prendere, però non, Purtroppo devo dire che la Fiat è il 50%, dipende tutto dal periodo di Fiat di cui parliamo. Ovviamente la Fiat ha fatto sempre macchine utilitarie, mentre la Lancia all'epoca faceva macchine di prestigio e l'Alfa faceva auto molto sportive, eccetera. Tutte quante fino a un certo periodo erano un'assoluta eccellenza. Vedate che ci sono in giro ancora delle 500, delle 600 e così via. Quello che è andato male era il periodo in cui hanno iniziato a fare i furbi, tipo la 127. Ecco, credo che sia nato proprio lì il problema, da quelle auto in poi, dalla 127, ma non tanto per i motori, più che altro per le carrozzerie. Tu figurati che loro stessi le chiamavano le auto scioperate, perché era, non so quanti anni hai tu, se sei grande o piccolo, ma era un periodo in cui le chiamavano le auto scioperate, così, perché hanno fatto un periodo di grandi agitazioni sindacali, quindi di scioperi e di cose del genere, in cui uscivano delle auto veramente bidone. Sono figurati che noi avevamo preso un'auto nuova, quindi mai toccata, proprio arrivata, eccetera eccetera, era tra le prime che c'era la chiusura centralizzata delle portiere, una cosa praticamente all'avanguardia. Beh, non ha mai funzionato. Alle concessionarie non sapevano neanche come si poteva riparare. Dopo un paio di mesi la macchina ha iniziato a mettere ruggine in una maniera indegna, veramente, e così via. Quindi la Fiat, e questo è successo anche, è riuscita anche a rovinare l'Alfa quando ha fatto quell'auto, adesso non mi viene, quella che facevamo con Mignano d'Arco, credo, che era un bidone praticamente, per come abbiamo conosciuto noi l'Alfa, le Giulietta, le Giulia e così via. Non era una macchina dell'Alfa, era una macchina della Fiat, anche se c'era l'Alfa. Quindi la Fiat ha fatto grandi danni, poi niente da dire sul fatto dei motori, sono sempre stati buoni in linea di massima, ma come carrozzerie ha distrutto l'immagine praticamente. Si sta riferendo all'Alfa Sud sicuramente, vabbè, lì c'erano problemi. No, non voglio vantare la Fiat, io dico solo una cosa, che la macchina perfetta non esiste e mai esisterà, perché io ti faccio vedere macchine italiane con difetti, che hanno qualche difetto di certe cose, congenito, che piano piano cercano di sistemarle e poi se ne crea un altro. Ti faccio vedere macchine tedesche, tipo l'Audi, che secondo me è il top della qualità costruttiva attualmente, l'Audi, anni fa, per dire 30-40 anni fa poteva essere una Mercedes, ma non c'ha niente a che vedere con la Mercedes di 30-40 anni fa. Adesso il top qualitativo è l'Audi, ma c'ha tantissimi problemi meccanici, non te li elenco qua, dai motori ai cambi eccetera eccetera. Volkswagen non parliamo di altre cose, perché ci sono delle macchine che sono nate male già in partenza, Mercedes, ci sono tutte le macchine, o più o meno qualcuno c'ha i suoi difetti. La Fiat si è un po' rovinata, sino ha migliorato un po' dagli anni 90, quando hanno iniziato a mettere lamiere zincate, perché prima utilizzava lamiere nere, chiamiamole così, quelle di Pomigliano d'Arco erano accatastate nel porto, perché arrivavano con le navi ed erano già rugginose prima di partire, è inutile, le metti in una macchina, le pulisci, li fai tutta la decappaggio eccetera eccetera, però sono lamiere già rugginose in partenza, per cui c'è stata una marea di quelle Alfa Sud, tutte marce, non parliamo poi di Zorretto, piano piano hanno deciso di farle zingate, dagli anni 90, dalla Tipo, sono state tutte zingate le macchine, a parte qualcuna che avevano la capota ancora non zingata, tipo l'appunto prima serie e seconda serie, infatti si arrugginivano, ma non erano solo loro, c'erano anche le Opel eccetera eccetera. La Volkswagen invece in quegli anni lì ancora la tintiatura non andava, perché non c'era il giusto aggrappaggio delle vernici, non c'era garanzia di tenuta, i materiali di verniciatura non erano ancora adattati al 100% allo zinco, poi piano piano hanno trovato i fondi fosfatanti eccetera e sono riusciti a sistemarla, hanno utilizzato il trattamento antiruggine, e la vanguardia erano la Volvo che l'ha inventato, il famoso Dinitrol, e la Volkswagen che l'ha messo su concessione, e erano le macchine che dovevano più di tutti, perché erano trattate negli scatolati, all'interno c'erano queste specie di cere, mentre la filata le dava così, solo quelle di importazione le davano stato di verniciatura anziché a 7 o a 5, le facevano vetrati, c'era uno stato di fondo fosfatante, di cataforesi superiore, per cui quelle importazioni andavano un po' meglio, ma quelle che erano in Italia erano di grandissima, di scarsissima qualità le protezioni con la corrosione. Avanti di nuovo, Gianfra. Si lascia sempre un attimo il piatto, ovviamente. Sì, infatti, questo l'ho fatto anch'io, guarda. Mi ricordo che un mio zio era arrivato dalla Germania, ha preso questa Giulia, ma in Italia quella Giulia neanche la conosceva, no? Dovevi vedere cos'era dentro, era praticamente un'auto che se la fai adesso probabilmente nessuno di noi ce la può permettere, cioè sedili in pelle, il volante era quello dell'Alfa, quello prestigioso, credo fosse in legno, non ricordo che legno era, praticamente di durata eterna. Ma tutto era, sentivo il rumore, era il rumore dell'Alfa, cioè niente a che vedere con quelle vendute in Italia. Ma questa è un'Alfa, sì, questa è la vera Alfa, quella che fa l'Alfa, che però la manda in Germania per distruggere la BMW e quelle cose lì, capite? Quindi sì, qua ci lasciavano il lacciume e all'estero portavano la roba buona. Sì, è vero, devono cercare di entrare nel mercato, come hanno fatto i giapponesi all'inizio. Non so se ti ricordi le prime macchine giapponesi, erano ridicole, c'erano tanti di quei problemi. Non parliamo delle coreane, adesso le coreane sono state le prime a dare 7 anni di garanzia. Se tu vai a prendere la Kia c'è 7 anni di garanzia, nessuna macchina, a parte qualche macchina americana, proprio marchi d'élite ti danno quelle garanzie così lunghe, perché da noi sono massimo 2-3 anni, ma proprio esagerando. E la Kia per entrare sul mercato italiano fa degli ultimi prodotti qualitativamente, magari motoristicamente non sono all'avanguardia, però qualitativamente come cosa, a dare 7 anni devi fare una cura maniacale delle costruttiva. Così la Hyundai 10 anni, 15 anni fa ti metteva a ridere quando vedevi le Hyundai, dici ma che macchine sono, si troncavano in due, ne perdevano pezzi ai tempi della Atos, della Jazz, eccetera eccetera. Adesso vai a comprare una i10, i20, i 35 pulitari, sono costruiti veramente bene, tanto di cappello, non costano neanche eccessivamente. La gente può essere, si sta fissando a questo cacchio di Dacia, quelli sì che sono dei bidoni veramente, di carrozzeria vero, anni che non vedevo la ruggine sulla Dacia, ho trovato la corrosione passante, macchine di 4-5 anni, marce, completamente marce. Sì, capita. No, poco fa hai nominato la Volvo, mi è venuta in mente una cosa, guarda, di motori sicuramente, essendo fatte per un certo clima, abbastanza dure, eccetera, anche gli autobus, infatti mi ricordo che erano formidabili, nella costruzione degli autobus che duravano parecchio, però proprio per la Volvo come autovettura, mi ricordo che quando era uscita quella, come si chiama, quella familiare praticamente, no? La chiamavano il carro funebre perché c'era un designer talmente brutto che anche se la macchina funzionava benissimo uno ci rimaneva lontano, erano veramente brutte, ma proprio brutte, erano a livello quasi delle auto inglesi. La Pola sta dicendo, però io dico una cosa, all'epoca, stiamo parlando anni 70 sino a fine quasi inizio degli anni 80, qualitativamente la Polo, la Volvo era invidiata da tutti, io andavo ai corsi della Fiat, di altre marche, altre Volkswagen, ho fatto, e li prendono le macchine, le smontano per dire, la concorrenza, vedono, cercano di copiare qualche cosa, e ti posso dire, detto da loro, da questi ingegneri che fanno i controlli, all'epoca il numero uno costruttivo a cura dei materiali, per dire la maniglietta interna, la trapezzallo, lo specchietto, era la numero uno sino a quasi agli anni 80, era la Volvo. Parliamo di macchine senza salire troppo di categoria. Sì, peccato che fossero brutte come la morte. Il carro funebre infatti la chiamavano quella familiare. È una cosa proprio orribile, poi era un robusto, tutto quello che ti pare, però brutta, dai. Anche se gli inglesi non ne scherzavano, Io, guarda, per l'inglese a me piace da morire, la... cioè piace. La macchina che fa crepare dalle risate, non so se hai conosciuto la Regal, che sarebbe quell'auto a tre ruote, che è odiatissima da Mr. Bean, e la fa sempre andare fuori strada. E Mr. Bean c'ha la famosa Mini, anche se l'hanno rovinata con il lucchetto fuori proprio alla serratura. Non so se l'hai vista la Mini Cooper. E Artisan, che è l'attore che fa Mr. Bean, non so se lo sai, ma che sì, tra l'altro. E nella sua tenuta c'è una collezione di auto da paura, tutte rinomate, tutte proprio, perché è un appassionato d'auto. Ecco, da lì ho pensato, ecco perché mi sembra appena vede una di quelle, di quei quadrati a tre ruote, lo butta subito fuori strada. Diciamo, le macchine inglesi non me le comprerei mai, infatti secondo me, non per denigrare, ma assolutamente indietro alla concorrenza. La Rolls-Royce era una macchina costruita con certi criteri per certi tipi di clientela, di elite, eccetera, eccetera, però assolutamente non mi comprerei mai una macchina inglese, infatti si vede alla fine che hanno fatto. Loro un po' si sono arrangiati con la Mini, antagonista delle nostre utilitarie Fiat, però sinceramente anche la Mini nuova che hanno fatto adesso non piace. Assolutamente macchine inglesi, qualcuna, qualche Jaguar, vedi quelle degli anni 60, quelle tipo di Diavoli, però non è, per quei soldi mi comprerei altre macchine, per dire, se prendete una macchina d'epoca degli anni 50, anni 60, qualche Spider, non vado sicuramente sulle macchine inglesi, c'è molto ma molto di meglio in Italia. Io mi ricordo da ragazzo quando compravo CQ Elettronica, non so se l'hai conosciuta, con la rivista. Tra le altre cose c'era anche la pubblicità, no? Anche non di radio. E avevo visto un'insegna che vendevano quei famosi taxi londinesi, cioè presenti quelli che sono molto alti, che hanno insomma quei taxi lì che sono, c'è una forma strana praticamente, tipo anni 30 se vogliamo. Sì, ma ce ne sono un paio a Sassari, non so se l'avete, uno era sempre parcheggiato a Monserrato per un po' di tempo, quello nero l'aveva utilizzato uno per fare pubblicità, diciamo sono macchine degli anni 50, li hanno portate sino agli anni 80, anni 90, poi negli anni 90 li hanno fatte diesel, perché consumavano troppo, c'erano motori della guerra, del dopoguerra, ma erano soltanto tipo uno scarpone sembrava, bruttissimi, però i tassisti inglesi li volevano quelli lì perché erano alte, secondo loro comode, però erano dei barrasoni che consumavano l'anima di corso, di benzina, assolutamente c'è molto di meglio. L'inglese è come il discorso del tram a due piani, sono, in Italia sarebbe quasi inconcepibile una cosa del genere, ma con tutti i discorsi di fili volanti che ci sono, pali elettrici, pali della luce. Sì, ma anche di gente che non può fare le scale, tra l'altro, molto anziani che hanno la panacea con i piedi, cioè, tu mi dirai, sì, vabbè, ma basta che va bene al primo piano, però, insomma, non era proprio esattamente così, anche quelli erano storici. Guarda, gli inglesi sono all'avanguardia sui motori d'aereo, quello tanto di cappello, hanno fatto bellissime cose e le stanno continuando a fare, però delle vetture è meglio che cambino mestiere, lasciano lasciare fare altri, nelle navi discrete, anche loro qualcosina lo fanno, però gli italiani li fanno le scarpe 10 volte, sui motori d'aereo devo dire che hanno degli ultimi prodotti e esportano in tutto il mondo. E per forza sono Rolls-Royce. Anche durante la guerra, pur avendo, lì, quando c'erano i tedeschi Messerschmitt che erano aerei di prestazioni superiori, loro quei piccoli Spitfire riuscivano a metterli in mezzo, erano i calabroni contro le Vespe, eppure riuscivano a darle mattana perché erano molto agili, motori leggeri, eccetera. Infatti, ciao Natalino, buonasera. Sì, però l'italiano, ad esempio, sto leggendo che hanno tolto un nuovo aereo, che è un aereo che si chiama Observer, osservatore quindi, che gli americani sono rimasti a bocca aperta, tanto è vero che se l'hanno subito comprato, non so quanto, che ha praticamente tutta la carlinga, tutta trasparente, fatta in un plexiglass speciale, e quindi il pilota ha 360 gradi di vista, e lo utilizzano in... per il pattugliamento costiero e per vedere, diciamo, tutto intorno, c'ha tanti posti per sistemi elettronici, telecamere infrarosse con particolari caratteristiche, eccetera. Quindi più della Rolls-Royce adesso sta andando di moda, non mi ricordo la marca, ma sono motori canadesi, se non ricordo male. Quasi tutti hanno motori canadesi anche per vari sistemi. E poi comunque siamo anche i primi nel mondo come elicotteri e la V169. Anche quello che vediamo del 118, quello grande, perché l'altro è Airbus, è il leader mondiale, tra i più venduti del mondo. Quindi insomma già ne facciamo il corso. Ascoltiamo un po' la voce di Natalino, che è entrato a salutarci. E buonasera a tutti e due, dai. Io ero in ascolto da un bel po', e siccome devo fare cosa adesso, non è che posso rimanere in ruota, vi ascolto comunque, non c'è problema, dai, che adesso è venuta l'ora dei pavesini. Come piccolini, riprendi Roberto. Noi prendiamo i plasmon, siamo ancora più piccoli, tu sei grande, c'hai pavesini. Ciao Natalia, rimane ascolto. Ciao, faccio una bella chiacchierata interessante. No, l'elicottero hai detto bene, siamo un'avanguardia mondiale. E non abbiamo venduto agli Stati Uniti, che loro, anche loro sugli elicotteri andavano alla grande. E possiamo dire la nostra. Quella che stavi dicendo tu, quella canadese, che sono, li utilizzano anche per i vecchi canadere, il gruppo Bombardier che fa acquistato la Rotax, eccetera, eccetera. E adesso si è preso anche la Mercury, eccetera, eccetera. Fanno di tutto quel gruppo che costruisce motori di aerei, quelli sono turboelica. Se no fa anche motori a reazione, infatti la General Dynamics americana, fanno vari motori. Sì, siamo bravini, dai, però siamo troppo lamentosi, capito? Siamo sempre, denigriamo tutto il possibile. Però siamo uno dei pochi popoli sul pianeta che se la prendono sempre con se stessi. Perché? Sì, è verissimo. Guarda, l'altro giorno ho sentito, non so se hai seguito la Coppa America, Luna Rossa, eccetera, eccetera. I neozelandesi, quelli che hanno vinto, stavano vincendo 4-2, di chi arriva prima a 7, hanno vinto 5-2, in parole povere. Quando hanno incontrato gli italiani, che dice gli italiani stavano camminando, passeggiando, tutto qua, e hanno fatto i complimenti, diceva tanto avete, no, noi gli italiani li temiamo perché sino alla fine, cacchio, lottano sino alla fine, abbiamo dimostrato ai campionati europei di calcio, ci temono tutti, ci rispettano tutto, soprattutto i paesi, quelli dove ci sono persone intelligenti, tipo la Germania, ci invidiano tanto, forse la Francia invece hanno l'invidia come gelosia, nel senso che loro, che hanno questa mania di superiorità rispetto all'Italia, però noi a livello di tanta tecnologia abbiamo da cosa? Da insegnare tanto, tanto. Poi tornando al discorso delle macchine, non parliamo di stilisti, i migliori stilisti del mondo sono italiani, adesso vengono a studiare qua tutti i migliori scuole di cosa, di ingegneria, di architettura, vengono tutti in Italia, i più grandi stilisti del mondo, parliamo di autovetture, e poi piano piano qualcuno ne sta uscendo, qualche americano ne è uscito, qualche giapponese, e piano piano anche loro poi alla fine diranno come hanno fatto con le macchine, ci copiano, e poi piano piano anche loro faranno delle belle cose, le stanno già facendo. Sì, è così, purtroppo noi stiamo attualmente attraversando una fase un po' strana, ecco, perché da noi stiamo con la fissazione di tante persone che per forza bisogna avere la laurea, ci siamo dimenticati che ci occorrono persone che facciano anche dei lavori, diciamo, importanti, non da laureato, però da operaio specializzato. Vedo i saldatori, i tornisti, operatori di macchine numeriche, che non è un lavoretto da niente, tu pensa che sono, a volte sono pagati anche più degli ingegneri, perché uno che, un operaio che sbaglia sulla macchina numerica si manda in tilt produzione, se non la fermi subito la macchina ne escono dei pezzi difettosi, quindi capito, molti giovani dovrebbero essere presi e indirizzati anche a fare questi lavori che non ci sono, soprattutto saldatori, che li dobbiamo prendere dalla Romania, da quale parte là, e quelli saldatori sono preziosi per le industrie navali, eccetera, anche se molta cosa la puoi robotizzare, però alla fine poi per fare il tocco dell'artista ci vuole sempre la mano umana. Ah, guarda, se continuiamo nel discorso delle macchine, nella Reggio Emilia, diciamo nella zona Emilia Romagna, tutte le case costruttrici europee, qualcuna anche estera, fuori extra europee, tutta la manifattura, cruscotti, maniglietti, altacristalli, qualunque cosa, gli accessori che per costruire la macchina vengono costruiti tutti di lì. Infatti quando c'è stato il Covid che si è bloccato tutto, sai quanto è andata in crisi la Volkswagen, il gruppo Volkswagen, siamo all'avanguardia, nella industria piccole, piccole imprese che costruiscono per dire la, non dico la lampadina, cosa ti posso dire, la bocchetta di aerazione, il dimetro della macchina, il tubo di collegamento, eravamo a livelli mondiali, leader mondiali su queste cose, poi piano piano i sindacati hanno bruciato tutto quanto, perché avevamo delle industrie all'avanguardia, non parliamo della Olivetti, parliamo della cosa, della cosa ti posso dire, la Innocenti delle macchine, tante cose avevamo, eravamo all'avanguardia mondiale, non parliamo degli elettrodomestici, solo gli americani ne producevano più di noi. In Europa non c'era nessuno che arrivava a costruire quello che facevamo noi come, come inventiva, eccetera. Hanno distrutto tutto. Ormai adesso vi avete trovato piccole imprese piccoline, adesso abbiamo qua Sassari, una piccolina a livello mondiale, però a livello italiano si fa sentire la Binsula, non so se avete notato, ma lei sta lavorando per la Ferrari, per la Volkswagen, e costruisce sistemi di centraline elettroniche per queste grosse multinazionali. E noi, cacchio, stiamo andando avanti con queste piccole cose. Prima avevamo delle industrie enormi e facevano di quantità oltre che qualità, adesso purtroppo hanno distrutto tutto, quando sono entrati in mezzo il discorso degli scioperi, hai detto bene tu, sindacati e cosa, hanno disintegrato tutta la, la produzione italiana, eravamo tra i primi 5 al mondo, adesso mi pare saremo tra i primi 10 se ci arriviamo. Purtroppo ci manca anche una certa serietà nell'affrontare i problemi. Tu hai citato i sindacati, ad esempio sulla questione all'Italia, cavolo, ci è costato veramente un paccone di milioni di euro, debiti, eccetera, ma se è vero come è vero che il privato, per quanto grande, deve tenere i conti in ordine, come si fa a continuare a fare lavorare della gente che praticamente non produce, cioè produce in perdita, praticamente non ha introito, e di lì è così che è finita l'Italia, quindi adesso stanno lamentando, ma tanta gente andrà a spasso, e purtroppo è vero, però ditelo a chi non si è accorto di questa anomalia, cioè le fabbriche, le ditte, i commercianti, il loro introito è il guadagno, ma se guadagno non solo non ce n'è, ma addirittura c'è perdita, si va verso il fallimento, e questa è durata anni e anni, con prestiti mai restituiti, ha fatto buchi da paura, e adesso ho paura che ne vogliamo fare un'altra che farà ugualmente buchi. E molte colpe ovviamente ci hanno anche sindacati di questa situazione, perché non si rendono conto che non è che si possa mantenere a spese del contribuente queste ditte qua che non fanno prodotto, ecco. E certo, adesso non voglio dirti una fesseria, ma mi sembra che la Ritalia perdesse 300.000 euro al giorno, perché c'era una flotta di più di 100 aerei, quelli che rimanevano fermi, manutenzioni, eccetera, eccetera, e aveva 300.000 euro al giorno. Fatti il conto, in un anno cosa ha perso? Quanti miliardi di euro? Poi è stata rilevata dallo Stato, li mettono come direttore generale o amministratore delegato, una persona che non sa manco cos'è una bicicletta, non solo di un aereo. Ci vogliono persone competenti, non pulite. Il problema quando vanno nemmeno ai politici, poi parliamo di banche, che tanto paghiamo noi quando falliscono le banche per cattive gestioni, e i soldi li mettiamo noi cittadini. Quando è partito Monte dei Paschi di Siena, Etruria, eccetera, eccetera, chi li ha messi i soldi? Se fallisce un'impresa tipo la mia o la tua, non è africani e dare su loro, a quelli belli della Fiat forse se non l'hanno aiutata, dopo che si hanno sperperato tutto e hanno fatto tutto qua, dice se no qua licenziano, allora lo Stato dammi un po' di miliardi e facevano così, ci vuole. Su quando è entrato in mano Marchione è riuscito ad aggiustare un po' la situazione, i sindacati si sono lamentati, perché qua sta portando tutto fuori all'estero, non pro... certo cacchio, se tu mi metti in battone fra le ruote per forza che io sono costretto ad andare in Polonia a produrlo o in Brasile, chissà perché in Brasile era la macchina più venduta insieme alla Golfo, allora c'era la Punto, adesso ci sono altri modelli eccetera eccetera, c'era Tipo, andava la grande, in Italia cacchio bloccavano tutto, per forza è un bene costruire, cacchio ti fuori delle cose, degli stipendi a livello della Germania, tu non puoi confrontare la Germania con l'Italia di lì, è tutto un diverso discorso, un operaio tedesco produce non so quante macchine in un'ora, hanno fatto il conto l'italiano, il tedesco mi sembra 12, l'italiano ne produce va 8, per forza che hanno stipendi superiori, a parte che c'è tutto il discorso diverso di automazione eccetera eccetera, però c'erano premi di produzione, qua invece hanno bloccato tutto, e stavano 2 mesi, 3 mesi bloccavano gli stabilimenti e poi alla fine la Fiat andava male. Sì, ma l'esempio classico era quello proprio che hai nominato prima di quell'auto dall'Alfa Sud, io allora ero proprio in quella zona e ti posso dire che non so più altro di gente che c'aveva il motore gratis, ecco, perché si portava a casa e quindi c'era un sistema, anche l'Italia ha sofferto parecchio anche i cosiddetti sistemi dirigenziali che mancava la dirigenza, capito? Una dirigenza che era condiscendente, perché guarda che l'operaio italiano di norma è un operaio che lavora moltissimo. Mi ricordo che quando eravamo in guerra Rommel ha detto vorrei dei soldati che obbediscono come soldati italiani, che con un pezzo di fil di ferro riescono, continuano a combattere. Quindi detto da generale questa cosa sugli italiani, che notoriamente erano sempre denigrati, ci avrà pure un significato. E tanto è vero che gli italiani che sono andati all'estero spesso hanno salito i vari gradini delle carriere, anzi quasi sempre. Il problema è che